E niente, una web radio che parla di musica improvvisata. Scusa, sì. Sto cercando di mandare via il cane che mi si è appoggiato. Ti voglio bene, però lasciami in pace. Sapete che piace i cani? Beh, forse sente l'odore del mio cane. Ah, perché anche tu hai un cane? No, anch'io ho un cane. Sì. Forse sì, allora. Forse è quello. Cos'è secondo te in un musicista estemporaneo, cos'è che fa scattare in te, diciamo, la definizione più bravo o meno bravo? Sì, ecco, per più bravo intendo proprio la capacità di autosorprendersi, uh-huh, di cogliere se stesso, come dire, impreparato a una cosa e grazie a questo trovare qualcosa, trovare sì, qualcos'altro, perché questo è, ad esempio, Picasso diceva questo: io non cerco, trovo. È un po' questo di trovare qualcosa ed essere e non esserne spaventati. Quello che volevo dire è complicatissimo, mi sono un po' perso, però in realtà la cosa sconvolgente qual è dell'Amleto è che praticamente durante tutto il dramma lui esita a vendicare la morte del padre, non lo fa mai, capito? Il dramma si basa sul fatto che lui non può vendicare la morte del padre, e perché questo? Perché in realtà lui desiderava. Io, vabbè, ho cominciato come tanti con la chitarra da spiaggia, e poi sono passato al basso elettrico. Ad annoiarmi di me stesso e quindi cercare qualcosa che mi dia stimoli diversi, e quindi adesso sono soprattutto interessato o alla musica contemporanea scritta oppure all'improvvisazione radicale o a tutti quei mondi che sono anche al confine fra queste due cose. Assaggiamo questa pasta di Marcolino. Fatta io. Profumata. Buonissima. Intanto, per essere un nordico, è al dente. Ah sì, perché di solito la scuociono. Beh, sì. Sì? Io la scuocio. La scuoci? I nordici. Ah, i nordici scuocciono. Sì. Non la sapevo io. Rispetto a un napoletano. Mm. Però mi ricordo che... E la si arrabbia sempre con me. Sì. Fa attenzione. Poi diventa... Si agita nel momento in cui sembra che sia cotta nell'acqua la pasta. Mm-hmm. Comincia ad agitarsi tantissimo. Sbrigati, spegni il fuoco, scola subito, perché bisogna far velocemente per prima che si scuoce. La cosa che... che mi piace in questi casi quando invito dei musicisti, ad esempio dall'estero, è quello di farli interagire anche con, oltre che con me, anche con altri musicisti del posto, visto che ci sono musicisti che, molti musicisti che praticano l'improvvisazione, e alcuni molto, anche molto bravi. Verso questa cosa che tu hai registrato, che tipo di atteggiamento ho? Un po' dipende, quasi sempre un atteggiamento molto di pancia, nel senso che molto dipende dal rapporto che ho avuto con le persone con cui ho registrato. Mi è capitato anche di suonare con gente che non è che mi stesse proprio simpaticissima sì. Eppure magari il risultato era buono, perché sono chimiche strane, quasi incontrollabili. Certo. Una freschezza assolutamente incontrollabile. Questo dovrebbe essere quello che... No. C'era un doppio di tennis famoso ai miei tempi, perché io ho più di 50 anni, insomma, che erano rumeni, Nastase e Tiriac. Ah, sono famosi. Sono famosi, perché, infatti. E loro erano bravissimi, vincevano, ma tipo per non so quanti anni non si salutavano, non si rivolgevano la parola minimamente. Davvero? Eppure giocavano in maniera... lì è un feeling... che organizza la mia associazione sono autofinanziate, nel senso che sono o entrata a offerta oppure un biglietto minimo a prezzo politico. Sì. Nell'ultima occasione, nell'ottobre scorso, c'era un piccolo contributo della provincia di Cagliari, okay, che aveva fondi rimasti non spesi, e quindi prima della fine dell'anno li ha un po' distribuiti e quindi ha dato... Questa è una bella cosa. Sì, sì, sì, perché poi in queste cose a volte trovi il funzionario che magari è appassionato di musica e quindi dice: ma sì, ci sono queste organizzazioni che non prendono mai niente, che non... perché non dargli anche qualcosa? Sì. Certo, certo. Perché a me è capitato di fare di condurre dei workshop per non musicisti. Ah, ecco, vedi, quindi per la conduzione improvvisazione per non musicisti. Mm-hmm. Hai scoperto qualcosa di interessante? Moltissimo, si scoprono talenti inaspettati. O tante persone che considerano se stesse negate per la musica scoprono improvvisamente che certi aspetti possono invece consentirgli di fare musica, di divertirsi con la musica, di giocare con la musica. Certo. Che alla fine è la cosa più importante. Certo, certo. E probabilmente hanno dentro questa capacità di sorprendersi, come si diceva prima. Esatto, sì. Probabilmente sì.